Un buongiorno a Lorenzo Menini e benvenuto ai microfoni di Radio Città Fugico. Grazie mille, buongiorno a tutti. Parliamo un po' del sentiero degli dèi oggi. Molti di noi lo hanno fatto almeno una volta nella vita o ne hanno sentito parlare. Tu hai trovato un modo originale per raccontarlo, per parlarne. Qual è questa modalità? Ma guarda, in realtà è stato abbastanza diretta come cosa, nel senso che essendo io illustratore ho preferito unire tutti i ricordi che mi sono venuti, tutte le immagini che ho vissuto durante il cammino dentro una guida illustrata. Certo, come hai raccolto l'ispirazione? Durante il cammino o è un processo creativo, diciamo, che è arrivato a posteriori? Allora, guarda, in realtà mi ero portato dietro la macchina fotografica, lo stabilizzatore, la videocamera, però poi la via degli dèi ti impone di pensare a camminare piuttosto che fare dei video, delle foto, o perlomeno a me e alla mia sportività. Quindi in realtà durante il cammino ho preso gli appunti, il puntacchino. Dopo, ovviamente la vedo era finita, parlando anche con le persone con cui ho fatto questo cammino, questo bellissimo viaggio, abbiamo ricordato e mi sono ricordato un po' gli aneddoti e poi li ho messi giù. Si presenta questo libro unicamente come una guida pratica al sentiero degli dèi o contiene anche le tue impressioni, le tue sensazioni personali? Guarda, l'ho chiamata guida perché è il modo più immediato per capire di cosa si tratta. Le guide sono quelle che si trovano, sono quelle ufficiali fatte da professionisti. Questo è un insieme di ricordi e appunto di pensieri, di idee, di sensazioni che ho provato e sono venute fuori anche dopo la fine degli dèi. Quindi diciamo c'è un po' un misto di informazioni, sia qualche aiuto pratico che le tue sensazioni. Esatto, ci sono quei consigli che poi sono quei basilari, nel senso delle vesciche, di muoversi sempre, non fermarsi mai perché sennò fanno male, a magari dei momenti in cui effettivamente durante il cammino si hanno delle epifanie sulla propria vita, perché comunque ci si trova in situazioni assolutamente bucoliche in cui appunto si è molto ispirato. Dove sarà possibile acquistare il volume e come è possibile sostenere anche il crowdfunding che stai facendo, appunto? Allora, adesso il crowdfunding è su produzione dal basso, basta scrivere appunto qui dell'illustrata la degli dèi dove si trova, e mancano 7 giorni, quindi siamo quasi alla fine. In futuro appunto ho l'intenzione, comunque sono in contatto con alcuni albergatori, con l'InfoSasso, così da poter lasciare la guida alla via degli dèi sulla via degli dèi, così che i camminatori, gli andanti la possono trovare sul percorso. Come ultima cosa ti volevo chiedere il consiglio migliore che puoi dare per affrontare questo lungo cammino, secondo te qual è? Quello di parlare, di trovare dei compagni di viaggio e di non aver paura appunto di comunicare e di conoscere gente nuova, perché la maggior parte del cammino è reale fatica. Condividere anche la propria fatica con qualcun altro, almeno a me, ha aiutato molto a continuare a non fermarmi in mezzo a una tappa. Io Lorenzo ti ringrazio, ricordiamo appunto che insomma sta per uscire guida illustrata alla Via degli Dèi in 6 tappe. Grazie mille, grazie a voi.